Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me. Te ne vai, sbatti la porta intanto. Ho capito, già te ne stai andando. Dici tanto, ormai per te non piango più. Fallo te. Che ne sai, non ti hanno mai detto di no. Tu che non sai che cosa sono e non si può. Te ne vai come io fossi niente, come fossi che. Te ne vai perché non c'è più niente da prendere. Te ne vai come ci fosse un altro, come se ti stesse già aspettando, come se esistesse qualcun altro uguale a me. Che ne sai, non ti hanno mai detto di no. Tu non hai mai pianto e non sai più cosa sono e non si può. Te ne freghi tanto. Come fossi pazza, sì, pazza di te. Me ne vado perché un po' ne ho voglia, un po' perché. Perché per te l'amore dura un anno, perché te sai solo cancellarlo. Vuoi solo chi non ti sta cercando più come me. Che ne sai, non ti amo.